era da 6 anni che questi 4 mercati, che sono i mercati storici di Campi Aperti, erano, diciamo, regolati tramite un patto di collaborazione che ha tutto un altro spirito rispetto a un bando, che è più un progetto di riqualificazione della città e un progetto di mercati di comunità, che vuol dire che sono riconosciuti anche i coproduttori che frequentano un mercato, non solo dei produttori agricoli. Quindi era per noi un buon modo di andare avanti, di dialogare in un altro modo, di pensare ai mercati contadini non come una cosa per cui bisogna mettere a disposizione pochi spazi e poi mettere in competizione fra di loro piccoli produttori agricoli locali. Per noi questa scelta adesso di un bando anziché un patto di collaborazione, che è una scelta completamente al 100% politico, non c'è nessun motivo tecnico che devono, niente del genere, è un gran passo indietro. E anzi, il bando non è ancora uscito, per cui stiamo chiedendo di revocare il bando e di ripensarci. Niente, per fare questo abbiamo anche abbozzato una proposta di nuovo regolamento per i mercati contadini, che proprio fa questo lavoro fino in fondo, quello che con i patti di collaborazione si è cominciato a fare, cioè di mettere i mercati contadini in un'altra ottica, che non è quella riduttiva capitalistica della competizione così e basta, in un'ottica che riconosce un po' di più il suo valore globale. E quindi niente, abbiamo presentato anche questa nuova bozza di regolamento, che non è altro che un regolamento che si basa su altri regolamenti di altri piccoli centri vicino a Bologna, la Val Samoggia e Sassomarconi, che già prevedono questa possibilità, che se il comune per esempio decide che una piazza qualsiasi deve diventare un'area mercatale, allora lo mette a bando e va bene. Ma se, come nel caso di tutti i nostri mercati che sono mai esistiti, è un progetto presentato da un'organizzazione insieme a cittadini al Palazzo Curzio, allora può fare un altro percorso che va guardato, valutato il progetto e accettato o meno. Tutto questo in un'ottica di dire: ma tutti questi supermercati che praticamente sono come funghi dappertutto a Bologna non devono mai vedersi messo a bando, solo noi. Tu ricordavi che c'era un patto di collaborazione e il comune non vuole rinnovarlo? L'assessore attuale non vuole rinnovarlo. Il problema di patto di collaborazione è limitante in quanto è un accordo con una particolare giunta, diciamo, un particolare assessore, un particolare, insomma, quindi è molto soggettivo. Noi stiamo cercando un altro modo che non sia il bando, che non è così soggettivo, non è così messo a rischio. L'altro problema con il patto di collaborazione è che scadeva ogni 2 anni, quindi ogni 2 anni per questi mercati che, cioè XM e Gobetti, quello va avanti da 20 anni, questo è il 20° anno, cioè il VAG, cioè da 16 anni, anche Stavena, cioè, insomma, sono tutti i nostri mercati storici, quindi questa cosa qua praticamente ci mette a zero. Il bando non considera nessun elemento, diciamo, storico, non dà più punti se un'organizzazione vuole gestire più di un mercato, cioè praticamente ci annienta e ci mette a zero. E poi è un bando per mercato sperimentale, quindi un bando che comunque ti assegna lo spazio per 2 anni, perché l'area mercatale è considerato sperimentale. Adesso dopo 20 anni o 15 anni o 10 anni ci sembra una punizione più che altro. Tu sottolineavi prima che rifiutate la logica competitiva tra produttori locali e recentemente avete anche lanciato la rete per la sovranità alimentare, quindi insomma il discorso che fate voi non è semplicemente quello commerciale, ma è un discorso anche filosofico e politico. Assolutamente. Noi dobbiamo renderci conto che siamo in un momento di grande crisi ambientale, lo sappiamo tutti. Ci dobbiamo più che altro rendere conto quanto è grande il ruolo dell'agricoltura convenzionale in tutto questo. Cioè un terzo dei gas ad effetto serra è riconducibile all'agricoltura. È veramente una cosa disastrosa per questo pianeta l'agricoltura convenzionale, così come il GDO, la grande distribuzione organizzata, e non solo al vitale, anche a livello sociale, a livello di diritti umani, insomma a livello di giustizia sociale. Bisogna mettere i mercati contadini e i piccoli produttori agricoli che esistono nonostante il fatto che non dovremmo esistere per questo sistema qua, non siamo neanche contemplati nel sistema, diciamo, dominante. Allora bisogna mettere questi mercati in un'altra ottica, che non sia quella competitiva commerciale e basta, perché stiamo promuovendo un'alternativa, ma un'alternativa che è necessaria, cioè adesso sembra esagerata, ma letteralmente per la sopravvivenza della specie umana dobbiamo trovare alternative e non continuare nella stessa direzione di prima. Allora, quello che fa il bando è continua nella stessa direzione di prima, dove appunto, cioè, praticamente mette in atto una guerra fra poveri piccoli e non guarda neanche il quadro globale di che cosa ci sta succedendo. E quindi niente, anche questa proposta di cambiamento del regolamento, primo abbiamo abbozzato con tutti i nostri compagni eccetera eccetera, di Camilla, di Arvaia, di Creso, come potrebbe essere un regolamento dei mercati contadini che promuove e fa sviluppare questi mercati in città e non solo in pochi posti. Cioè, noi siamo convinti che non c'è bisogno di mettere solo 4 piazze a bando, ma che tutte le piazze potrebbero contenere mercati contadini e accettare progetti di mercati contadini. Quindi spostarci da una logica della scarsità, che si abbraccia bene il capitalismo, ad una logica dell'abbondanza, perché Bologna non è saturo rispetto al livello di cibo fresco, sano e locale di cui ha bisogno. Non potrebbe mai essere saturo, quindi non è quello il problema. Il problema è prettamente politico.